Radio Voce Spazio. Mi piace un bel programma, ascolta questo pezzo, okay. Senti come infiamma, ascolta. Angelo e Paolo, sì, qui a presentarlo. Cosa? Alza il volume, alza, altri boost, e iniziamo. Ok, bella fra, senza se, senza ma, dai voce prendi spazio, la tribù è questa qua. La city è uno strazio, tu sei solo e senza lei. Tribù Radio Voce Spazio in compagnia dei due DJ. Questa è la tribù, non so se mi hai capito. Stai zibri, virus di Angelo e il manito. Qui da questa city, e questa è la frequenza 93.8, sintonizzati e pensa. La la la la la, il nostro flow dilaga. Entra nella tua mente, questa gridava.